passo lento sulla strada di Gerusalemme, sulla sella di un somaro viene l'uomo di Betlemme. È un gran santo, un mendicante, un pellegrino, un gran furfante, un artista non cantante di novelle. Hop hop hop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Hop hop hop, somarello, trotta trotta, tu porti l'agnello. Miracoli li fa da sé con le sue mani, ma qualcuno per tre volte lo rinnegherà domani. Questo è Pietro il pescatore, poi c'è Giuda il traditore, tutti amici finché si raccoglie gloria e onore. Ma c'è un prezzo per l'amore, tre monete d'oro, non no. Hop hop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Hop hop hop, somarello. Sulla piazza l'han portato al giudizio di Pilato. Chi sarà questo pezzente, questo uomo è innocente. Per Barabba hanno votato, ed il Cristo han condannato, ed il sangue suo ricada sulla nostra gente. Costui parla della pace, muoia sulla croce. Hop hop hop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello.